Il mercoledì pomeriggio normalmente uno inizia a chiedersi: ma cosa facciamo stasera? Perché il mercoledì è una giornata un po' particolare, un po' spezza a metà la settimana e noi siamo arrivati oggi per darvi un consiglio. Al telefono con noi in questo momento c'è Cocco degli Evil Knievel. Anche per te il mercoledì è una giornata un po' strana? Sì, molto spesso. Quindi io A direi volte sì, non che si sa cosa fare. eh sì, il mercoledì uno dice: ma cosa facciamo di bello? E arrivate voi, infatti stasera al Mi Casa ci sarà il vostro concerto, giusto? Esatto. Quindi abbiamo qualche ora per convincere gli ascoltatori che il vostro concerto è imperdibile. Noi lo sappiamo già perché vi abbiamo sentito alla fermata a Camposanto ed è stato un concerto Grazie. bellissimo. A Ah, me è piaciuto grazie. molto. Sì, siete veramente molto bravi. Quindi abbiamo assolutamente deciso di consigliare la data di stasera e di fare qualche domanda per conoscervi meglio. Ok. Ok, allora io partirei con la prima domanda che riguarda il vostro nome. Io un po' mi sono documentata e ho notato, tu mi confermerai o meno se è vero, che il vostro nome è molto simile a Evel Knievel, che è uno stuntman americano che ha fatto un po' la storia, diciamo, di questa disciplina. C'è un collegamento? Ma sì, diciamo che è andato un po' per scherzo, nel senso che era comunque difficile trovare un nome, e ogni proposta che facevo era sempre bozzata, poi per scherzo ho tirato fuori il nome dello stabile, tutti, insomma, è piaciuto a tutti, e da lì abbiamo solo, cioè, ho solo deciso di storpiarlo leggermente per evitare che fosse, diciamo, una copiatura, insomma, una forzatura del nome. È quindi un nome diabolico comunque in un qualche modo. Ok, questo nome però è legato a una band che possiamo dire è nata da poco, no? Avete una storia molto recente, se non sbaglio. Vi siete formati nel 2017, se non mi ricordo male, giusto? Sì, esatto, sono 2 anni esatti che siamo insieme. Allora auguri intanto. Sveglialo una Esatto, è grande gita. compleanno. Come vi siete conosciute e come avete deciso di iniziare a suonare assieme? Ma allora, praticamente io e Luca, il bassista, suonavamo già in una band prima di questa. Noi avevamo provato a fare già alcuni dei pezzi che abbiamo messo qui insieme con il Nivol, però diciamo non era andato a buon fine, dopo ci eravamo fermati. E sciolta quella band, dopo abbiamo incontrato da primo Farao, il batterista, poi Dani, il chitarrista organista, e successivamente Ricci, il chitarrista solista, e da lì, insomma, abbiamo deciso di provare a mettere giù questi pezzi che erano lì da, insomma, abbastanza tempo, da un paio d'anni, e insomma ci trattava solo di trovare l'occasione e la formazione giusta per metterli in opera, ecco. Ok, eravate al posto giusto nel momento giusto, insomma, per Ma sì, iniziare a diciamo suonare. così, partita bene. Perfetto, e da questa collaborazione nata 2 anni fa è nato anche il primo disco, giusto? Che state Sì, esatto. ascoltando in giro ora e che secondo me dal primo ascolto che ho fatto e anche dal live che abbiamo potuto ascoltare ha tutta una serie di influenze molto interessanti, soprattutto influenze che si possono ricondurre a una musica non proprio tipicamente italiana e soprattutto non recentissima. C'è del classic rock, c'è della psichedelia, giusto? Sì, esatto, sì. Diciamo che è quel genere musicale che lega un po' tutti quanti i componenti del gruppo. Dopo ognuno ha i suoi ascolti più mirati, però in generale, diciamo, la passione che lega un po' tutti. Ok, e gli ascolti che vi hanno influenzato di più in assoluto, quali sono stati? Quelli che magari hanno anche unito di più le vostre preferenze musicali, ecco, mettiamola così. Ah, ok, beh, diciamo che ad esempio, non so, io e Luca, il bassista, da tempo eravamo più appassionati di quello che era il primo punk, insomma, quello dei fine 60, che nasceva dagli MC5, dagli Stooges, e che poi comunque gruppi che anche gli altri componenti apprezzano. E poi, al di là di quello, c'è tutto il discorso della psicanalia dei fine 60. Soprattutto, diciamo, quella americana, quella della West Coast americana, e poi a seguire anche un po' tutti, diciamo, i gruppi un po' fanno dei giorni nostri che fanno eco a quello che era quel genere di una volta, quell'ondata di revival di psichedelia che comunque ancora oggi va avanti. Infatti, noi quello che ci ha stupito di più, posso dirlo, dell'ascoltarvi live è stato proprio l'idea di chiudere gli occhi e sentirsi negli anni 70 in America ascoltare del rock proprio di quegli anni. È stato veramente un bellissimo ascolto e poi voi anche esteticamente un pochino richiamate gli anni 70 in certe cose, nei capelli un po' Beh, lunghi. sì, dopo c'è la passione per un c'è la grande passione per qualcosa, se tendi ad abbracciarla anche un po' in tutti i vari aspetti, ecco. Giustamente. E c'è un'altra cosa, un po' vintage, che io ho notato nella vostra pagina Facebook, dove si possono vedere un po' anche tutte le vostre news, le date e l'evoluzione, diciamo, Sì, del vostro sì, sì. percorso, c'è una bellissima foto su un camper d'epoca, cioè d'epoca, comunque un Sì, bellissimo camper, che usate sì. davvero voi, andate in giro davvero con questo camper. Sì, esatto, sì. Cioè adesso abbiamo, quando siamo, diciamo, più vicini a casa o dove comunque è più facile che il locale ci trovi la backline dove abbiamo meno carico di roba da portare, cerchiamo di arrendarci, come so, con una macchina. Quando invece abbiamo dei viaggi più importanti, insomma, per forza dobbiamo prenderlo perché sennò altrimenti non riusciremo a portare tutto quanto. Poi comunque un piacere andarci in giro. Ok, e il È la viaggio nostra piumato casa mobile. è la vostra casa mobile, giusto? Ma il viaggio piumato che avete fatto con quel camper adesso? C'è stata una data che abbiamo fatto, questa a settembre, dell'anno scorso al Porteghet di Trento. E sì, diciamo che arrivare là, se il camper c'ha i suoi anni, poi comunque non è un Euro 5, un Euro 6, quindi ci arrivi a Trento, avevamo già paura che ci, Vi lasciasse a ci metà fanno, strada, no? sì, che, no, che ci possono divieti o storie. Ok. E poi vabbè, il parcheggio impossibile ti mette a prova perché non c'è servostezze e nulla, quindi devi solo usare braccia e poi il viaggio di ritorno, autostrade chiuse, tornare, siamo persi in mezzo alla bassa, è stato un casino. Insomma, dovevamo tornare all'una, così siamo arrivati alle 3:30, vabbè. Ecco, una tappa da ricordare, però. L'importante è arrivare. L'importante è arrivare. Beh, prossimamente poi, allora stasera forse non lo userete a venire a Bologna, chissà, ma No, no. prossimamente, no, no, no, non c'è pericolo. Prossimamente andrete verso il mare con questo camper, giusto? Ci sono delle Sì, prossime date. esatto, sì, abbiamo una data a marzo, il 14, in questo locale a Gabice Mare, il Bar Diamond, Ok. e sì, faremo un po' di vacanza, un po' di mare, finché ci Giustamente, siamo. già che sei lì, giusto? sì, Va anche bene. se sicuramente non ci sarà il caldo d'agosto, però vabbè. Però va bene, dai, potrebbe già essere un'ottima idea fare una pausa mare. Comunque le vostre Esatto. date le possiamo trovare sulla pagina Facebook, giusto, aggiornatissima. E poi io ti faccio Sì. un'ultima domanda. La pagina Facebook è Evil Knievel, giusto, official? Esatto, sì. Ok. Eric Knievel Band, scusami. Band, ok, no, così ce lo ricordiamo. E ti faccio l'ultima domanda. Questo Sì. album è un album in cui appunto si sentono tanto le vostre influenze e anche le influenze delle carriere precedenti, perché voi già suonavate. E in futuro Esatto, avete sì. dei progetti che sono in arrivo? Continuate col tour? Avete in mente già di lavorare su qualcos'altro? Beh sì, sicuramente adesso continueremo col tour, con le date, abbiamo trovato due booking con cui collaborare, quindi diciamo che ora le date cominceranno a crescere. E poi avevamo già in mente di quest'estate, tra giugno e luglio se possibile, comunque di tornare in studio per fare un secondo disco. Siamo già partiti a mettere giù i pezzi nuovi. Ah, ok. Sì, forse già nelle Ingombranti. prossime. Sì, no, se ti fermi dopo sei perduto. Hai No, ragione. forse già nelle prossime date comunque qualche pezzo salterà fuori. Ah, e stasera no, però. Non riusciremo a sentire niente di nuovo. Beh, comunque sì, qualche pezzo fuori disco c'è già, sì, in scaletta. Ah, ok. Bene, quindi noi aspetteremo. Beh, per la prima della fine dell'anno, pensi che potremo già sentire il nuovo album? Chissà. Sì, spero di sì. Bene, però però massimo fine estate, prossimo autunno dovremmo essere partiti. Ok, allora aspetteremo news su questa cosa. Per il momento non guardiamo troppo avanti, ci vediamo stasera, ricordiamo la data appunto di stasera che c'è al Mikasa, giusto? Sì. E ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e ci vediamo più Grazie tardi. a voi. Grazie. Va bene, alla Ok. grande.